cosa ci fai in mezzo a tutta questa gente? Sei tu che vuoi, o chi dei conti non ti frega niente, tanti ti cercano spiazzati da una luce senza futuro, altri si allungano, vorrebbero tenerti nel loro buio. Ti brucerai, piccola stella senza cielo, ti mostrerai, ci incanteremo mentre scoppi in volo, ti scioglierai dietro una scia, un soffio, un velo. Staccherai perché ti tiene su soltanto un filo, lo sai. Sentite così? Tieniti su, le altre stelle sono disposte, solo che tu a volte credi non ti basti, forse capiterà che ti si chiuderanno gli occhi ancora, o soltanto sarà una parentesi di una mezz'ora. Ti brucerai, piccola stella senza cielo, scia, un soffio, un velo, ti staccherai perché ti tiene su soltanto un filo, sai. Grazie.